Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Uno degli ostacoli numerosi per la verità sulla strada della cosiddetta economia all'idrogeno è rappresentata dal costo elevato delle celle a combustibile, all'interno delle quali l'idrogeno può essere bruciato in modo controllato, producendo energia elettrica ad alto rendimento e vapore acqueo come gas di scarico. Insomma, è quindi motivo di una certa speranza la pubblicazione su Nature Materials di un articolo relativo a una ricerca svolta in Francia presso il sincrotrone di Solei, che ha aperto la strada per realizzare catalizzatori a basso costo che possano sostituire il costosissimo platino nelle celle a combustibile. Autore della ricerca, insieme ad altri colleghi di istituti francesi, uno dei tanti cervelli italiani prestati al resto del mondo, Andrea Zittolo, che è in linea con noi. Buonasera Zittolo. Sì, salve, buonasera. Allora, il tema è quello cosiddetto dei catalizzatori non preziosi. È un tema su cui si lavora in realtà da 50 anni, però qualcosa non funzionava e ancora oggi possiamo dire non funziona. Che cosa non funziona? Beh sì, dunque, la storia dei catalizzatori non preziosi è lunga, però le barriere che devono essere superate sono innanzitutto l'attività, che non è come quella del platino. Quindi un po' meno efficaci del platino, primo. Sì, sono diciamo generalmente meno efficaci del platino, e un'altra barriera che deve essere superata è la durabilità, quindi la resistenza. E per definizione un catalizzatore è qualcosa che facilita una reazione chimica ma ne esce immutato. Se invece si degrada rapidamente, insomma, non vale granché come catalizzatore. Questo è uno dei problemi, no, di questi catalizzatori non preziosi. Esattamente, questo è proprio il punto centrale. Ecco, di che cosa stiamo parlando? Sono dei miscugli di che materiali? Dunque, attualmente stiamo lavorando su catalizzatori a base di ferro. Ecco, allora in che cosa è consistita la vostra ricerca? Dunque, la nostra ricerca è consistita nello studiare dei catalizzatori, tra l'altro i più attivi e più promettenti, tra quelli non preziosi. Quello che era il grosso problema era che non si capiva la loro struttura, quindi non capire come è fatto un oggetto impedisce di capire bene come questo funziona. E anche quindi come migliorarlo per rimuovere quei problemi di cui abbiamo appena parlato. Quindi voi avete lavorato all'identificazione della struttura di questi catalizzatori, è così? Esatto, esatto, esattamente. Attraverso la luce di sincrotrone è stato possibile guardare quello che è il sito attivo, il cuore attivo di questi catalizzatori a livello atomico e molecolare. Vi ricordo quindi che un sincrotrone è un acceleratore di particelle che emette una radiazione luminosa, la quale può essere utilizzata per guardare all'interno della materia. È un po' come un grande microscopio che permette di sondare, dire, proprio la struttura della materia. Un suo utilizzo tipico, quindi, abbiamo parlato anche in relazione al sincrotrone di Trieste, che è una macchina simile, credo, a quella che avete lì voi vicino Parigi. Sì, è del tutto simile, della stessa grandezza e della stessa potenza. Ecco. È un gemello. Ecco, quali saranno a questo punto i prossimi passi? Avete quindi visto bene come funzionano questi catalizzatori non preziosi, che non si era capito bene come funzionavano, e adesso che succede? Beh, a partire da questo momento sarà possibile pilotare e disegnare la sintesi di nuovi catalizzatori sulla base delle conoscenze che noi attualmente abbiamo, e di conseguenza di migliorarli sia da un punto di vista dell'attività ma soprattutto da un punto di vista della loro stabilità, che rappresenta una barriera apparentemente insormontabile fino a qualche anno fa. Ecco, quindi se dovessimo provare a immaginare, quanto tempo ci può volere per fare dei passi avanti e avere degli sviluppi di tipo industriale? Sono già partiti alcuni progetti importanti anche a livello europeo, e io credo che da qui a qualche anno, 2-3 anni, sarà già possibile avere un catalizzatore migliore da poter utilizzare sul mercato. Quindi, insomma, non tantissimo tempo. Va bene, buon lavoro Andrea Zittolo. Grazie, grazie mille. Bene, anche per questa sera abbiamo concluso. Prima di salutarci vi ricordo che ci trovate naturalmente sul sito di Radio 24, dove potete ascoltarci anche in podcast, ma potete seguirci anche su Facebook, lì mi trovate col mio nome Maurizio Melis, o su Twitter come Smart Melis. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.